Ed eccoci giunti, carissimi, alla 67esima puntata della vita del Santo Curato d'Ars. E ricorderete che siamo abbastanza vicini alla conclusione e che prima di narrare l'ultimo anno di vita, l'ultima malattia e la morte, noi stiamo considerando, prima del gran finale, stiamo considerando i fatti straordinari della sua vita, o meglio i fatti soprannaturali della sua vita, cioè i fatti che non possono avere alcuna spiegazione se non ricorrendo all'intervento diretto di Dio, che sospende temporaneamente le leggi della natura e dona ai suoi santi dei doni, delle facoltà incredibili e straordinarie, che prima ancora di provare la santità di quella persona sono un grande inno alla potenza e alla bontà del Signore, vero? Come sapete, noi abbiamo considerato fino adesso le intuizioni e le predizioni del curato d'Ars, vale a dire la sua facoltà di conoscere il futuro e di leggere nell'animo delle persone. E poi abbiamo cominciato a parlare anche dei miracoli. Però abbiamo anche detto che per quanto riguarda i miracoli, egli li attribuiva interamente all'opera e all'intercessione di Santa Filomena, vero? Che lui chiamava la sua cara e piccola santa. Santa Filomena, di cui si conosce ben poco, tranne il fatto che fu vergine e martire, come del resto ce ne furono tante altre nel suo tempo, cioè al tempo delle grandi persecuzioni romane. Quindi Santa Filomena dovrebbe essere una giovinetta, un'adolescente, condannata a morte come cristiana, forse anche per il fatto di non essersi concessa a qualche magnate dell'epoca, che secondo certe rivelazioni sarebbe lo stesso imperatore, il quale per vendicarsi la fece poi condannare a morte. Comunque ciò che importa sapere è che Santa Filomena è esistita davvero, anzitutto, anche se forse non portava questo nome preciso, che è stato ricostruito dai resti della sua antica iscrizione tombale. E poi sapere, inoltre, che Santa Filomena è una grande taumaturga, anzi, una delle più grandi taumaturghe del secolo scorso, quando fu appunto ritrovato il suo corpo. Quindi il curato d'Ars, che riuscì ad avere una preziosa reliquia della santa, trovò comodo attribuire a lei tutti i miracoli che avvenivano nella sua parrocchia. Ma dobbiamo anche dire, carissimi, che qualche volta il curato d'Ars compì anche dei miracoli senza invocare, almeno apparentemente, l'intercessione di Santa Filomena. E fra i molti che si potrebbero narrare ne scegliamo 8. E vediamoli subito uno dopo l'altro. Primo esempio. Una donna inferma, della quale si ignora il paese di provenienza, era giunta ad Ars con la diligenza e, appoggiata alle sue stampelle, andava incontro a Don Vianney. «Su, camminate!» le disse il servo di Dio. Ma ella esitava. E Don Toccanie, che accompagnava il curato, aggiunse «Camminate dunque, dato che ve lo si dice, camminate!» Ebbene, la donna abbandonò subito le stampelle. E Don Vianney allora, vedendo il movimento che si produceva nella folla, le comandò «Prendetele con voi le stampelle!» Secondo esempio. Ascoltiamo una testimonianza scritta. «Un giorno, dice, essendo ad Ars, andai a confessarmi dal Santo Curato verso le ore 5 di sera. Lo vidi entrare in sagrestia tenendo per mano una bambina di 13 o 14 anni che aveva gli occhi velati da una fascia bianca. L'accompagnava sua madre, che entrò pure in sagrestia. Io ero in attesa e le vidi presto uscire. La figlia non aveva più gli occhi bendati. Le seguii fuori di chiesa e domandai, perché siete entrati in sagrestia dal curato? La madre rispose, «Oh Signore, mia figlia era cieca da 2 anni, non vedeva più nulla e appena scorgeva un barlume di luce solare. Ma dopo che ho parlato col curato, ecco, da allora vede bene, anche la croce che tiene in mano. Attenti ora come continua questa preziosa testimonianza scritta. Dice, io stesso, dice il testimone, le presentai allora un libro di preghiere per vedere se ella sapeva leggere il titolo. Ma la ragazza mi rispose, vedo bene le lettere, ma sono 2 anni che non leggo più. Raccontai il fatto al conte di Garé, sindaco di Ars, che si trovava sulla porta della chiesa, ed egli, senza farne gran caso, mi rispose, oh, il nostro curato fa ben altri miracoli. Ora passiamo subito, carissimi, a un terzo esempio. Esempio, ripeto, di miracoli fatti da solo, senza l'intervento almeno apparente di Santa Filomena. Nel 1854 viveva a Grenoble una bambina di 5 anni di nome Matilde. Un giorno, per gioco, una sua compagna di 12 o 13 anni la prese per la testa, vicino alle orecchie, e la sollevò da terra con tale violenza che i muscoli del collo si lacerarono. Per cui la bimba non poteva più tenere dritta la testina senza appoggio. Dopo lunghi mesi, non vedendo alcun risultato dalle cure che faceva, i genitori la condussero ad Ars per invocare l'aiuto di Santa Filomena. Ma le loro preghiere sembravano inutili. Da buoni cristiani assistettero alla messa di Don Vianney, al quale avevano raccomandato la piccola inferma. Ma ecco che nel silenzio dell'elevazione la bambina si alza gettando un grido. Mamma, mamma, guarda, guarda, sono guarita! Difatti, ella poteva girare la testa da ogni parte con facilità e senza sostegno. Quarto esempio. Un giorno del 1855, la signora Raymond, che già conosciamo per essere stata guarita ad Ars 2 anni prima da una laringite, veniva ancora a inginocchiarsi al confessionale del santo e chiedeva: «Posso sperare che Santa Filomena mi conserverà la voce per sempre?» Risposta: «Sentite, figlia mia, alcuni giorni fa, una buona donna della campagna venne qui con una bambina di 7 anni, muta dalla nascita. La povera madre stava confessandosi quando d'un tratto tacque. Figlia mia, le dissi, continuate la confessione. Padre, è impossibile. Pensate che non ebbi mai il piacere di sentir parlare la mia bambina, e ora sentite, è qui vicino al confessionale che parla. Oh, che grazia, che grazia!» La bambina era guarita e parlava distintamente. Questa donna, aggiunse il curato, era troppo commossa per poter continuare la sua confessione. Non faceva che ripetere piangendo: «Che grazia, Dio mio, che grazia, che grazia!» Ora, carissimi, passiamo subito a un quinto esempio, sempre di miracoli senza l'apparente concorso di Santa Filomena. Il 1 febbraio 1850... una giovane di nome Claudina fu condotta ad Ars per essere guarita da cecità e sordità venute in seguito a una febbre cerebrale. E notiamo che Don Vianney non aveva mai visto questa inferma e nessuno gliel'aveva ancora parlato. Il 1 febbraio la giovane stava davanti alla porta della chiesa quando passò il santo, il quale, senza proferir parola, la prese per mano. La condusse alla sacrestia e la fece inginocchiare al confessionale. Attenti, appena ricevuta la benedizione di Don Vianney, la giovane Claudina recuperò la vista e l'udito. Ma qui, attenti, colpo di scena. Terminata la confessione, il servo di Dio le fece questa strana predizione. Avete recuperato la vista e l'udito, ma ritornerete sorda ancora per 12 anni. È Dio che vuole così. Claudina uscì dalla sacrestia e non tardò ad accorgersi della verità di quelle parole. Non udiva più nulla. E questa infermità, secondo la predizione del santo, persistette ancora per 12 anni. Calma e rassegnata, felice per aver recuperato almeno la vista, l'inferma aspettava il giorno della guarigione completa, che avvenne il 18 gennaio 1862, esattamente dopo 12 anni. Beh, passiamo subito a un sesto esempio. Nel 1855 arrivava ad Ars una giovane per implorare la guarigione di una gamba. Il curato le disse: «Figlia mia, voi disobbedite spesso a vostra madre e le rispondete tanto male. Se volete che il Signore vi guarisca, correggetevi da questa mancanza. Oh, quanto vi resta da fare! Ricordatevi di una cosa, voi guarirete sì, ma a poco, secondo gli sforzi che farete per correggervi da questo difetto». Beh, come facile immaginare, tornando a casa, la ragazza fu più obbediente e più rispettosa verso sua madre. E da allora la sua gamba, di 10 centimetri più corta dell'altra, cominciò ad allungarsi gradatamente, di modo che dopo pochi anni la sua infermità era completamente scomparsa. Ecco, mi pare, carissimo, un episodio quanto mai interessante, vero? Fa giusto venire in mente il paralitico al quale Gesù disse: «Ecco che sei guarito, sì, ma non peccare più, perché non ti abbia da cadere qualcosa di peggio», Giovanni 5,14. Ecco, esiste certamente un legame tra malattia e peccato, anche se non sempre un legame personale. Uno può pagare anche per i peccati degli altri, vero? Sì, come ha fatto Gesù. Ma comunque dobbiamo dire che l'impegno che uno mette nel migliorare la sua condotta morale influisce certamente anche sul benessere fisico, proprio e altrui. Ma questo tema, carissimi, se volessimo svilupparlo, sarebbe troppo impegnativo e ci porterebbe via troppo tempo. Passiamo perciò subito al settimo esempio. Ascoltiamo questo racconto testimonianza. Così scrive un testimone. Nel 1856 fui testimone della guarigione di una fanciulla muta da 3 anni in seguito a una paralisi. Dopo essersi confessata per iscritto al servo di Dio e aver ricevuto la Santa Comunione dalle sue mani, ebbe la fortuna di recuperare perfettamente l'uso della parola mentre faceva il ringraziamento. Potei parlare con lei e mi convinsi della verità della guarigione, che ella stessa mi narrò nei seguenti termini. Durante il ringraziamento, dai movimenti che faceva la mia lingua per seguire la preghiera del mio cuore, compresi che potevo parlare. Ed ecco allora, carissimi, che siamo arrivati all'ottavo e ultimo esempio di miracoli compiuti dal santo curato d'Ars senza la partecipazione di Santa Filomena. Una signora di Lione voleva presentare al servo di Dio un fanciullo che aveva un tumore sopra un occhio, per il quale si diceva necessario un intervento chirurgico. Ma prima di sottoporlo all'atto operatorio, lo si volle far benedire dal servo di Dio. Ebbene, mentre Don Vianney levava la sua mano benedicente sulla fronte del ragazzo, la donna prese la sua santa mano e le fece toccare la parte ammalata, che, notate, subito all'istante guarì. Beh, dobbiamo dire che l'avvenimento, com'è comprensibile, suscitò molto rumore in mezzo alla folla, e il curato cercò tosto di correre ai ripari scappando in fretta. La sera stessa, mentre Don Tocanier e fratello Atanasio lo accompagnavano nella sua camera, rivolse ad essi queste parole: «Sentite, mi è successo oggi un bello scherzo. Ne ho avuto vergogna. Se avessi trovato il buco di un topo, mi sarei nascosto volentieri». «Cos'è successo?» chiese il missionario, fingendo di non saperne nulla. Risposta: «Nonostante quello che si dice, il buon Dio fa ancora dei miracoli. Una signora mi condusse un bambino che aveva un gran male vicino a un occhio. Mi fece toccare il male e questo subito disparve». Al che Don Tocanieri riprese: «Questa volta non direte che è Santa Filomena». Il santo restò confuso, ma poi rispose: «Ah, ella può ben avervi avuto qualche parte. Beh, carissimi, cosa dobbiamo concludere da questa risposta del curato d'Ars? Dobbiamo concludere che in tutti questi casi di guarigione invocava subito, no, con un grido del cuore, la sua cara piccola santa, oppure dobbiamo concludere che aveva come una misteriosa visione della parte da lei compiuta in questa circostanza? Non si sa. In ogni modo il nostro santo ebbe cura costante di attribuire a lei tutte le grazie di guarigione, mentre invece alla Santa Vergine tutte le grazie di conversione. Dobbiamo inoltre dire che gli scritti del processo di beatificazione contengono la narrazione di almeno una trentina di miracoli accertati, e si sa che in seguito altri testimoni ne hanno giunti ancora. Però attenti, sappiamo che si contano a migliaia gli ammalati che domandarono al curato d'Ars la guarigione, ma non si può dire in quale proporzione siano stati esauditi. È certo comunque che per la maggior parte non furono guariti. Perché? Semplicemente perché il santo implorava per essi doni migliori, apprezzando il beneficio soprannaturale della sofferenza cristiana. E conosciamo tutti un suo famoso motto: la più grande croce è quella di non averne. Questa è la più grande croce, non avere croci. E a fratello Atanasio, che gli confidava le sue pene, rispondeva: tanto meglio, amico mio, tanto meglio. La sofferenza rianima la fede. E a questo proposito abbiamo anche altre testimonianze molto preziose. Sentiamo per esempio quella di un sacerdote, Don Dufour, che dice: un giorno che lo seguì presso un malato, lo intesi dire: amico mio, non so se devo pregare per la vostra guarigione. Non si deve levare la croce dalle spalle che sanno portarla così bene. E sappiamo che quando qualcuno si rivolgeva a lui implorando una guarigione, Don Vianney esigeva come condizione indispensabile la fede. Per esempio, a una giovane di Marsiglia, senza fede e di cattivi costumi, che era soggetta ad attacchi di epilessia, rispondeva: non è così che si deve fare quando si vuole guarire. E a una donna che aveva fatto il pellegrinaggio secondo le intenzioni di un parente ammalato, diceva: fate una novena di preghiere. Ma aggiunse anche esitando: non so se il buon Dio vi ascolterà. In quella casa non vi è maggior religione che in una scuderia di cavalli. E difatti alla fine della novena l'ammalato moriva. Un cittadino di Nantes, sofferente di artrite, mentre progettava di andare a Parigi per fare una cura assai costosa, fu consigliato da uno dei suoi amici di recarsi ad Ars, dove avrebbe sperimentato che la preghiera di Don Vianney, che le preghiere di Don Vianney erano le più efficaci di tutti i consulti degli specialisti. Ma l'ammalato vi si oppose per mancanza di fede e metteva delle condizioni. Allora si scrisse una lettera a fratello Atanasio pregandolo di spiegare la cosa al curato, e si ebbe la seguente risposta: il curato, che col Signore non vuole né se né ma, mi incarica di farvi sapere che è meglio lasciar partire quel signore per Parigi, perché quando si domanda qualche grazia mettendo delle condizioni, si è sicuri di non ottenere nulla. E allora, carissimi, giunti a questo punto, sempre seguendo passo passo il nostro biografo, concludiamo con questo pensiero: la vita del nostro santo fu un miracolo continuo. Il miracolo è un segno del divino, vero? È il sigillo di Dio sulla terra. Ma come abbiamo già detto e ripetuto più volte, la santità può sussistere anche senza i miracoli. È così, anche se Don Vianney non avesse fatto alcun miracolo, non sarebbe per questo meno santo e meno ammirevole. Ma a pensarci bene, la sua vita non fu forse un miracolo continuo? E questo è un pensiero che scrisse il Ribadeneira parlando di San Bernardo, no? Dice: egli fu il primo e il più grande di tutti i suoi miracoli. Bene, lo stesso pensiero fu espresso non meno felicemente da un contemporaneo di Don Vianney, cioè il bravo maestro Pertinant, che fu suo grande amico e all'occasione anche suo barbiere e suo infermiere. Disse infatti: l'opera più difficile, più straordinaria e più prodigiosa che abbia realizzato il curato d'Ars fu la sua vita, la sua stessa vita. E un sacerdote diceva: io credo che il curato d'Ars non avrebbe potuto adempiere le sue funzioni opprimenti senza la soprannaturale assistenza di Dio. E un altro sacerdote aggiunge: è umanamente incomprensibile che abbia potuto resistere per 30 anni a un ministero così opprimente, che sarebbe stato sufficiente a far soccombere qualsiasi altro prete molto più forte di lui. Viveva perciò di un visibile soccorso divino. Beh, a conclusione di tutto, carissimi, ecco quale fu l'apprezzamento espresso da uno dei medici del curato d'Ars, che disse: dal suo modo di vivere, che mi è ben noto, considero la sua esistenza del tutto straordinaria e naturalmente inspiegabile. E noi possiamo aggiungere col biografo: no, l'era dei miracoli non è finita, ma ci vogliono dei santi, e questi sono troppo rari, sono troppo pochi. Così, carissimi, abbiamo concluso anche il capitolo dedicato ai miracoli del curato d'Ars. E ora, per completare l'argomento che riguarda appunto i fatti straordinari della sua vita, non ci resta che considerare i fatti mistici di cui ha avuto esperienza. E vedrete che anche questo sarà un capitolo molto interessante. E direi che c'è proprio da augurarsi che tornino sulla terra altri curato d'Ars, i quali non solo ripercorrano la sua vita prodigiosa, ma soprattutto mostrino alla Chiesa il vero volto di Cristo, anzi direi il vero volto di Cristo sacerdote, perché direi che è stata proprio questa la funzione del curato d'Ars: mostrare alla Chiesa l'immagine e il volto del perfetto sacerdote, e quindi di Gesù sacerdote, che non solo fa cose vistose, di per sé marginali, ma specialmente si crocifigge per amore di Dio e degli uomini. E mi pare che questa sia proprio la base della spiritualità del nostro santo, cioè essersi crocifisso con Cristo per il bene delle anime. Dato che si sta concludendo il mese di San Giuseppe, vorrei dire qualcosa su di lui. Anzitutto, due cose di cui sono molto convinto, e poi far passare con voi i 7 dolori di San Giuseppe corrispondenti ai 7 dolori della Madonna. Ecco, due cose di cui sono convinto. Primo, che San Giuseppe è presente in paradiso anche col suo corpo, come Gesù e Maria. Non mi parebbe giusto che il capofamiglia sia stato degradato confronto agli altri due. Del resto lo sostengono anche diversi padri della Chiesa. Secondo, che come Gesù Cristo sta esaltando sempre meglio sua madre nel corso dei secoli, vedi i dogmi dell'Immacolata dell'Assunta degli ultimi 2 secoli, così sua madre desidera onorare sempre meglio il suo sposo. Non pensiamo che il punto d'arrivo, il termine di questo cammino che stiamo percorrendo, sia il trionfo del cuore immacolato di Maria. Ma io penso che il vertice sarà raggiunto ancora dopo, con il trionfo del cuore immacolato di San Giuseppe. E credo proprio di non sbagliarmi. Ecco, poi vorrei parlarvi appunto dei 7 dolori di San Giuseppe, che corrispondono ai 7 dolori della Madonna. Primo, l'angoscia di sentirsi tradito dalla sposa, anche se poi verrà, grazie a Dio, quel sogno liberatore. Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati, come Matteo 1, da 18 a 25. In questo modo San Giuseppe non solo viene liberato da un incubo, ma viene altresì investito di una missione, quella di fare da padre al Messia, anche se lui non se ne sentiva degno, come del resto la Madonna. Secondo dolore, il viaggio a Betlemme, l'ospitalità negata, la gelida grotta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Ecco, non occorre commentare. Terzo dolore. Gesù presentato al Tempio, tristi presagi. Simeone li benedisse e parlò a Maria sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Ecco Luca 2, da 22 a 35. Naturalmente questa spada trafiggerà pure Giuseppe, anche se lui non assisterà alla morte di Cristo, ma tutti i dolori della Sacra Famiglia lui li ha patiti in prima persona insieme agli altri due, e forse più degli altri due in quanto capofamiglia. Quarto dolore, la fuga in Egitto, l'esilio. Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Dolore che poi si completa col ritorno dall'Egitto. Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. Anche se Giuseppe in questa occasione è stato un po' titubante, no? Avendo saputo che al posto di Erode regnava il figlio Archelao, per cui ebbe paura di andarvi. Però un ennesimo sogno lo ha rassicurato, per cui si è diretto risolutamente verso Nazaret, dove la Sacra Famiglia ha abitato per 30 anni. Sarà chiamato Nazareno. Ecco, Matteo, capitolo 2, versetti da 19 a 23. Quinto dolore. Gesù perduto e ritrovato. Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ed egli rispose, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero le sue parole. Come, del resto, non avevano compreso le parole del vecchio Simeone. Sesto dolore, la quotidiana fatica del lavoro. Ecco, i cittadini di Nazareth non si meravigliano moltissimo che questo giovane, cresciuto sotto i loro occhi, ora manifesti una sapienza così straordinaria. La gente rimaneva stupita e diceva, da dove mai viene a costui questa sapienza e questi miracoli? Non è egli forse il figlio del falegname, del carpentiere? Matteo 13, 54 e seguente. Dunque Gesù era conosciuto a Nazaret come il figlio del carpentiero, del falegname. E siccome nel Vangelo di Marco Gesù è semplicemente chiamato dai suoi concittadini il carpentiere, il figlio di Maria, ecco che dobbiamo dedurre due cose. Primo, che i due, padre e figlio, esercitavano lo stesso mestiere, come associati in una piccola azienda familiare. Secondo, che a un certo punto il padre morì, no, secondo la tradizione, fra le braccia di Gesù e di Maria, e il figlio continuò da solo la professione paterna, sempre sotto lo sguardo vigile della madre. Ecco, il settimo dolore, come avrete già capito, è appunto il distacco definitivo dai suoi cari, cioè la morte. Anche qui molti padri della Chiesa sostengono l'esenzione di San Giuseppe dal peccato originale. Perciò il suo trionfo anche corporeo, che se avvenne, avvenne comunque dopo il trionfo corporeo del figlio e della sposa. Però quel che conta è pensare a San Giuseppe non solo come patrono dei papà e dei lavoratori, ma anche come patrono dei moribondi. È buon per noi se in quel momento fatale saremo assistiti dai tre membri della Sacra Famiglia, Gesù, Maria e Giuseppe. Sia lodato Gesù Cristo. E ora, carissimi, vi leggo questo testamento spirituale di un caro sacerdote che è morto recentemente, Donaldo Santin, un testamento spirituale che certamente edificherà tutti quelli che lo ascolteranno, abbastanza breve. Resta con me, Signore, perché si fa sera. La mente non è più elastica, come mi pareva di averla un tempo. I pensieri a volte si inchiodano, ma io confido in te, Signore, perché tu solo hai parole di vita eterna. Tu scruti i cuori, tu sai che mi sono sforzato di amarti. Ti sono infinitamente grato per la vita che mi hai dato, per la famiglia in cui mi hai fatto nascere, per il battesimo, la cresima, la confessione, la comunione, soprattutto di avermi voluto tuo sacerdote. Quante anime ho incontrato. Sono stato a tutte di aiuto per venire a te. Tu lo sai, Signore. Mi rimetto a te in tutto e per tutto. Perdonami, Signore, i miei peccati. In nome tuo chiedo perdono a quanti involontariamente posso aver offeso. Se qualcuno pensasse di avermi recato torto, sia certo nel mio completo perdono. Signore, accetta la mia sofferenza in espiazione per le mie infedeltà al tuo amore infinito, in riparazione del bene che potendo non ho fatto o fatto male. Benedici i miei fratelli e parenti tutti. Voglio assicurare la mia comunione con la Santa Madre Chiesa, il Papa, il Vescovo. Tu, Signore, sai tutto. Confido in te, mi affido a te. La Vergine Immacolata mi accompagni a te. Ecco, Donaldo Santin, 31 gennaio 95. Molto bello e certamente utile a tutti. E ora, carissimi, passiamo alla liturgia della domenica che, come ho detto, verrà commentata ora all'inizio della trasmissione dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 37, versetti 12-14. Ecco, ricordiamo che questa liturgia, la liturgia della quinta di Quaresima in rito romano, ma il Vangelo corrisponde anche al rito ambrosiano. Ecco, il Vangelo di Lazzaro, la risurrezione di Lazzaro. Ecco, ascoltiamo dal profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nel vostro paese. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Parola di Dio. Ecco, ricordo che il Salmo sarà il Salmo 129, il Salmo De Profundis, con questo ritornello: il Signore è bontà e misericordia. Ecco, in questo salmo inneggia soprattutto la bontà di Dio, il suo perdono, e lo invoca su di sé e su tutti. Ora la seconda lettura, che è tratta dalla lettera ai Romani, capitolo 8, versetti da 8 a 11. Fratelli, quelli che vivono secondo la carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustificazione. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morrà in eterno. Lode e onore a te, Signore Gesù. Ecco, adesso leggiamo il Vangelo di Lazzaro, che è lunghissimo, però lo leggiamo nella forma breve. con, diciamo, le parti più salienti, più importanti, più significative. Siamo nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo undicesimo, ecco, di per sé tutto il capitolo, ma qui ci sono solo degli spezzoni. In quel tempo le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, il tuo amico è malato». All'udire questo Gesù disse: «Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro. Quando ebbe dunque sentito che era malato, si trattenne 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea». Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro, che era già da 4 giorni nel sepolcro. Marta, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, Egli te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Gli rispose Marta: «So che risusciterà nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo?» Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo». Gesù si commosse profondamente, si turbò e disse: «Dove l'avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Vedi come lo amava?» Ma alcuni di loro dissero: «Costui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che questi non morisse?» Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro vi era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, già manda cattivo odore, poiché è di 4 giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credono che tu mi hai mandato». E detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti in bende e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare». Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di quel che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Si tenga sabor a ti, entonces habitaré. Per chi non ha potuto collegarsi all'inizio della trasmissione e non ha potuto ascoltare le parole del Vescovo di San Marino, diremo soltanto una parola di commento della liturgia della prossima domenica, che prevede la risurrezione di Lazzaro. Quell'episodio così caratteristico del Vangelo di San Giovanni che troviamo al capitolo undicesimo. Ecco, a un certo punto questo brano evangelico ci ha mostrato Gesù che piange. Ecco, vedere Gesù che piange fa sempre specie, vero? Però da una parte è anche molto bello, perché ce lo mostra uomo come noi. E lo sentiamo perciò stesso molto più vicino a noi. Anche se, badate, lui stava per fare un miracolo strepitoso, stava per compiere un miracolo strepitoso dove mostrava invece l'altra sua faccia, cioè quella divina. Dunque, questo brano evangelico ci mostra un Gesù a 2 facce, vero uomo e vero Dio. Un Gesù che può tranquillamente piangere davanti alla tomba dell'amico e subito dopo farlo risorgere dai morti. Ma queste 2 facce, se ci pensate bene, carissimi, sono anche le 2 facce del cosiddetto mistero pasquale. Ecco, la liturgia ambrosiana contempla come prima lettura il passaggio del Mar Rosso, no? Dove c'è la morte e la risurrezione. Ecco, mistero pasquale comprende due fasi, due tappe, che non si possono mai separare, che sono indissolubili, cioè la morte e la risurrezione. Ed è vero, queste due fasi, queste due facce sono visibili anche in natura, e dove noi assistiamo prima alle foglie che cadono, al freddo che avanza, eccetera, l'autunno, no? Poi, dopo non molto, assistiamo alle gemme che spuntano, che si aprono, la primavera, mentre il tepore della primavera intenerisce il nostro cuore. Ecco, hanno detto che la primavera non esiste più, e in parte è vero, cioè si passa, il più delle volte in questi ultimi anni, dall'inverno all'estate, senza stagione intermedia. Anche se questo poi non è vero del tutto, comunque. E forse anche questo è un segno dei tempi, carissimi. Non c'è più la primavera perché noi non crediamo più alla primavera, o crediamo poco alla primavera. Cioè, in pratica, non crediamo più alla risurrezione. O meglio, crediamo solo nella risurrezione che sanno provocare gli uomini, no? Per esempio i medici, gli scienziati, gli psicologi, eccetera. Ma non crediamo più alla risurrezione molto più radicale, sicura, che sa provocare Dio. Per cui la nostra vita non conosce primavera perché dalla nostra vita è scomparsa questa presenza indispensabile, che è la presenza di Dio, che al massimo si limita ad essere per noi una presenza formale, no? Per cui, grazie a Dio, frequentiamo ancora la Chiesa, sì. Ma non è comunque più una presenza viva, che cambia la vita, e da cui tu volentieri ogni giorno ti lasci mettere in crisi, per un continuo rinnovamento. Ecco, dunque, il Vangelo di Lazzaro ci fa riflettere, ci aiuta a riflettere su Cristo vita del mondo. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. E penso proprio, carissimi, che queste parole debbano farci riflettere senz'altro anche sulla morte. La morte dei nostri cari, d'accordo, già passati all'altra sponda, ma anche, che diamine, anche sulla nostra morte, che certamente un giorno verrà. Ecco, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Beh, oggi, come sapete, carissimi, si parla sempre più insistentemente di reincarnazione, vero? Dicono che al mondo ci sono almeno 3.000 religioni, e di queste 3.000 religioni, o gruppi religiosi, o sette religiosi, almeno la metà o anche i tre quarti professa, crede nella reincarnazione. Cioè, noi torneremo sulla terra a vivere un'altra vita, magari sotto forma di cane o di gatto o di maiale o di asino, eccetera. Che bel divertimento, Pensare a quel ciuchino che fa IA, IA. Pensare che quel ciuchino magari è quel tal famoso professore o scienziato, no? O artista vissuto nel tal secolo, nella tale nazione. Che assurdità. Invece la nostra religione, grazie a Dio, è molto più realista e dice: no, queste sono storie, sono fantasie, no, questa è una fuga dalla realtà. Non credete a queste panzanate, perché in effetti si vive una volta sola. E dunque il bene che possiamo fare, dobbiamo farlo subito. E la vocazione che abbiamo ricevuto da Dio, dobbiamo viverla subito, dobbiamo realizzarla subito. Diceva quel famoso avvocato di Venezia, transessuale, no? Che ormai è diventato purtroppo una celebrità. Diceva che non gli bastava aver vissuto da uomo per tanti anni, mettendo al mondo tre figli, no? Da sua moglie, naturalmente. No, non gli bastava, ma ora voleva provare anche l'altra esperienza, di vivere cioè come una donna. I risultati ve li lascio immaginare, e sono purtroppo sotto gli occhi di tutti. E no, carissimi, siamo seri. In effetti si vive una volta sola. e ognuno ha ricevuto una certa vocazione da Dio. Sì, è vero, tutto morirà un giorno di noi, sì, ma resterà comunque l'anima, lo spirito, in attesa però che risorga anche il corpo. Ma questo avverrà una volta sola, alla fine del mondo. E l'anima di chi muore entra in una nuova dimensione, che non è più quella terrena naturale, ma è quella ultraterrena e soprannaturale. Perciò, carissimi, lasciamoci possedere, dominare da Cristo vita, perché solo Lui è in grado di darci veramente la vita ed introdurci nella vita di Dio. Si conclude così questa breve riflessione sul Vangelo di Lazzaro. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.